Il gastronauta di Davide Paolini. Chissà, forse quando dirò l'argomento di cui tratteremo oggi qualcuno penserà che c'è bisogno dell'etilometro, perché sicuramente è un qualcosa di abbastanza inconsueto dire oggi tutti al mare a mangiare il pesce fresco. Beh, è già successo anche in estate, quando ho annunciato una trasmissione sul panettone d'agosto. Bene, anche allora forse tutti pensavano che ci fosse bisogno del etilometro, ma in realtà poi c'è stato un boom e ora tutti stanno scopiazzando dicendo il panettone tutto l'anno, ci sono manifestazioni addirittura fuori tempo, fuori luogo, perché è facile farlo a novembre o ottobre e dire il panettone tutto l'anno. E allora tutti al mare a mangiare il pesce fresco. Ora scoprirete perché questa trasmissione, e molti che magari sono scettici nell'ascoltare il titolo probabilmente si ricrederanno. Innanzitutto buongiorno, perché ancora non l'ho detto, cari gastronauti. E allora cominciamo con fare un giro dell'Italia per capire appunto se abbiamo azzeccato su questo titolo oppure se veramente è stata pura fantasia del gastronauta. Buongiorno a Flavio Cerioni della Lanterna di Metauriglia di Fano, buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Flavio, è già stato al mercato a Fano a comprare pesci? Sì, abbiamo già fatto spesa questa mattina. E cosa ha comprato? Mi racconti? Beh, questa mattina abbiamo comprato, siamo andati dalle sogliole, merluzzi, triglie, rombi, scampi, mazzancolle, gallinelle, razza, rane pescatrici. Tutta roba di stagione? Tutta roba di stagione, sì, più o meno, diciamo che pesce che non, normalmente si trova un po' tutto l'anno, ma soprattutto le mazzancolle, le gallinelle, le triglie e le pannocchie sono quelle che in questa stagione il nostro mare ce ne dà in quantità, diciamo, un pochettino più elevate, di grande qualità. Senta Flavio, ma secondo lei è sbagliato dire andiamo a mangiare il pesce d'inverno? Assolutamente no, perché è nel periodo più freschi che si ha la qualità migliore, dovuto anche a un fatto, come dire, di stress da temperatura nel momento della pesca. Un conto è tirare fuori il pesce a 14 gradi e con una temperatura esterna di 14 gradi, un conto è pescare il pesce a 13-14 gradi e avere fuori esternamente una temperatura di 35. Io dico sempre, a quelle temperature il pesce è già quasi cotto due secondi dopo. Eccomi, rimanga con noi, perché ora andiamo in Sicilia, andiamo a Riposto, andiamo da Puccio Corona. Buongiorno Corona. Buongiorno a tutti. Ecco, in Sicilia si festeggia in questo periodo il pesce azzurro. Corona, anche tu pensi che sia il periodo migliore per il pesce azzurro? Ma non c'è un periodo migliore per il pesce azzurro, perché secondo le specie si pesca tutto l'anno. E quindi qui si cerca di promuovere e di promozionare appunto una specie che è quella del pesce azzurro, che ha delle qualità organolettiche straordinarie, ha un prezzo basso e nessuno acquista, pochi acquistano, voglio dire, e non si capisce bene perché viene considerato il pesce dei poveri, cosa che non è affatto. Ecco, cosa succede a Riposto, questa festa, questa manifestazione? Ma guarda, Riposto ha un'antichissima tradizione, intanto marinara, perché qui c'è un istituto nautico che è il secondo più antico d'Italia dopo quello di Camogli, per esempio. E qui che ha formato peraltro marinai da quasi un secolo, insomma, che hanno girato il mondo e sono imbarcati su tutte le navi mercantili del mondo. E poi c'è questa grande tradizione della pesca di pesce azzurro, ci sono una cinquantina di pescherecci d'altura e un'altra cinquantina di piccola pesca, di piccole barche che pescano lungo le coste. Ecco, Riposto, sapore d'azzurro, anzi, qual è il giorno in cui c'è questa manifestazione? È in corso, è cominciata sabato scorso e si concluderà la domenica prossima. Ogni giorno ci sono degustazioni, ci sono esibizioni di chef molto noti che preparano ovviamente il pesce azzurro, le degustazioni sono di pesce azzurro, ci sono incontri con le scuole, con i bambini per far conoscere questo tipo di pesce, e poi ci sarà domani, te lo dico come annuncio, un convegno sul sauro, che sarebbe in italiano il sugarello. Certo, certo. Un pesce che è un pesce saporitissimo, e qui utilizzano un sistema di pesca unico al mondo, nel senso che vanno su una secca che loro conoscono benissimo e pescano con una lenza che è lunga e profonda, che arriva a una profondità di 100 metri e ha 18-20 anni ogni lenza, e l'esca è costituita da un pezzettino di peluche, proprio il peluche, quello delle bambole, degli orsacchiotti, e la cosa curiosa, perché pare perché di tutti i colori questo peluche, perché attira il sauro, la cosa curiosa è che, avendo proibito l'Unione Europea la vendita dei peluche, qui c'è una sorta di mercato nero. Bellissima questa. Bene, grazie a Puccio Corona e a Riposto Sapore d'Azzurro, a presto. Torniamo un secondo dal nostro Flavio Cerioni. Volevo chiedere, Cerioni, col sugarello che piatto possiamo fare? Il sugarello in questo momento è anche di pezzatura molto piccola e molto grassa, per cui potremmo benissimo farlo alla griglia, ma non diciamo anche un buon sugo, pomodorino fresco, due capperini, una scottante veloce nel sugo del coso, ci vengono fuori degli ottimi spaghetti. Bene, grazie a Flavio Cerioni. Volevo così tornare un po' indietro all'inizio di questa trasmissione, quando ho detto che sicuramente l'argomento può essere bizzarro, ma non lo è, perché... Perché mi è venuto questo argomento? Perché nel compilare una mappa della stagionalità del pesce, mi sono accorto che a novembre e dicembre le X che mettevo in questa tabella erano molto più numerose di tutti gli altri mesi. Quindi questa affluenza di tutti i pesci, quindi veramente ce ne sono tantissime, poi magari durante il corso della trasmissione ne parleremo. Volevo anche altresì ricordare che la stagionalità è fondamentale, molto più di chilometro zero, perché chilometro zero a Milano sicuramente non, difficilmente si può fare, mentre la ricerca della stagionalità sui prodotti, sui pesci, sulla frutta, sulla verdura sicuramente si può fare. La stagionalità offre maggior quantità di pesce, il pesce costa meno, quello di stagione, e sicuramente c'è un terzo punto, non arriva sicuramente dall'estero, quindi tre punti a vantaggio e poche altre cose diciamo hanno così dei vantaggi sulla borsa della spesa. Il gastronauta. E voilà, tutti al mare a mangiare il pesce in questo periodo, è il periodo migliore, signori. Ora poi ve lo dimostreremo pian piano, ma già abbiamo cominciato. E allora io così voglio sentire anche un parere scientifico, se questa mia così battuta, tutti al mare in questo periodo a mangiare il pesce, è un po', come ho detto, da etilometro o non lo è. Abbiamo con noi il dottor Corrado Piccinetti, anzi il professor Piccinetti, che è un notissimo biologo marino. Buongiorno Piccinetti. Buongiorno. Piccinetti, questa mia battuta, andiamo al mare a mangiare il pesce in questo periodo, che è il periodo migliore, lei come la trova? La trovo perfettamente coerente e corretta da tutti i punti di vista. Effettivamente il pesce, in particolare una serie di specie di grande interesse economico, commerciale e anche alimentare, sono nate in primavera, sono cresciute nel corso dell'estate e adesso all'autunno incominciano ad essere pescate in grande quantità, quindi questo vuol dire anche a prezzi abbordabili e accessibili, e si trovano anche in una condizione diciamo fisiologica ottimale, perché sono specie, per esempio la seppia, che non ha una vita molto lunga, in genere non più di un anno, adesso si trovano quelle seppie di circa 100-150 grammi che sono ottime, fatte al forno ripiene. Ecco, ci dia anche qualche altra specie così importante da acquistare o da mangiare in questo periodo? Certamente ci sono le triglie, tanto per dire, le triglie a un certo momento, quelle che erano, non lo so, gli Agostinelli, i Rosoletti, secondo le varie zone d'Italia, come le si possono chiamare, o la Fragaglia che in alcune aree, e queste sono cresciute, adesso sono arrivate sui 12-13 centimetri e sono ben, diciamo, pasciute, perché hanno mangiato bene nell'acqua calda dell'estate e quindi si trovano in una condizione, e sono abbondanti, perché è stato fatto il fermo pesca che ne ha protetto la cattura nel periodo in cui erano molto abbondanti nella zona costiera, e quindi adesso sono anche abbondanti, e quindi i prezzi si trovano come, diciamo, sono ottimi. C'è anche, non so, le gallinelle che sono nate all'inizio della primavera, adesso cominciano ad essere 200-250 grammi l'uno, e sono ottime, fatte in tantissimi modi, quindi questi sono alcuni esempi, ma ne potremmo fare tanti altri volendo. Ecco, rimanga con noi Piccinetti, perché ora facciamo un po' il giro dei mari, andiamo da Augusto Zorzetto, ristorante Omar a Jesolo, quindi sentiamo l'Alto Adriatico. Buongiorno Zorzetto. Sì, buona giornata a lei. Senta, cosa qui ho comprato stamattina al mercato, perché sicuramente è già stato al mercato. Ah sì, dai, in questo periodo ci sono degli ottimi branzini, anche i pesci più pregiati, il rombo, ci sono le passe, le cannocchie, quando ci sono le mareggiate che vengono distrutte, le tane si pescano in abbondanza. Ecco, cosa sono le passere? Hanno anche un altro nome in italiano, perché mi sembra che sia un nome inconsueto per il resto d'Italia. Io, in italiano sì, la passera praticamente è una specie di soglio, un tipo di rombo con una forma uguale, un pesce piatto dove cresce nella sabbia, cioè vive nella sabbia in questa particolare, da noi si chiama passera. Sentiamo Piccinetti. La passera è un pesce piatto che vive solo in Nord Adriatico, perché è un pesce che vive nel Nord Atlantico, non so quanto, ed è un pesce un po' particolare, c'ha un lato, diciamo, molto bianco e un lato invece scuro che piglia il colore del fondo, che raggiunge le dimensioni anche di poco più del chilo di peso, però viene pescata in genere nei mesi invernali, perché vive al limite tra le acque lagunari e la fascia costiera del mare, però ci sono solo in Italia, in Nord Adriatico. Bene, quindi allora da Omar sicuramente questo. Omar, lei come si Omar? Zorzetto, come lo prepara questo pesce? Da noi si usa, è molto, si usa piccolino in genere, si pesca piccolino in genere, si usa a fare fritto. Ah, fritto, quindi. È particolarmente buono fritto, a volte viene fatto anche in saori, in carpione, viene conservato con la cipolla, queste cose qua. Però in genere ai ferri o fritto è la maniera più classica. La sua morte, insomma, così dice. La carne è molto morbida, molto delicata. Senta, volevo chiederle una cosa, ma in questo periodo l'affluenza dei clienti, che sarebbe il periodo migliore per mangiare il pesce, c'è? In particolare da noi che siamo sulla costa, sulla spiaggia, ovviamente c'è un'affluenza inferiore in genere. L'estate ci porta molta più gente. Adesso purtroppo c'è il pesce, ma magari l'affluenza è minore. Sì, il bacino si restringe durante questo periodo, il bacino d'utenza, diciamo. Ora che lei potrebbe lavorare meglio, tranquillamente, con magari materia prima migliore, in realtà succede così. Grazie a Augusto Zorzetto. E ora continuiamo, volevo richiedere a Piccinetti. Senta Piccinetti, tra i vari mari italiani, cioè il Tirreno, l'Adriatico, lo Ionio, diciamo la stagionalità del pesce è molto diversa? No, molto diversa no, però delle differenze ci sono, perché ad esempio il ciclo biologico è in funzione molto spesso della temperatura, quindi i mari del nostro sud si riscaldano prima e quindi il periodo riproduttivo, la nascita dei pesci eccetera avviene prima, quindi e poi c'è un secondo fattore che è la ricchezza dell'ambiente che determina l'accrescimento, in questo caso l'Adriatico, essendo in particolare il Nord Adriatico, è più produttivo e quindi c'è una maggiore quantità di cibo per i pesci e questi crescono più rapidamente, per cui una triglietta che nasce prima magari in Campania rispetto a quello che è l'Adriatico, però dopo in Adriatico recupera, perché già arriva a novembre sui 13 centimetri quella che è nata a maggio-giugno, quindi, mentre la Fragaglia, diciamo campana, fatica ad arrivare a 10-11 centimetri nello stesso periodo, perché c'è le acque più pulite, però sono anche meno produttive, certo. Diciamo meno da mangiare. Sì, dai, si sta avvicinando il Natale, quindi al sud c'è questa tradizione, il capitone. Ecco, è stagione del capitone quando arriva Natale, cioè a dicembre inoltrato? Diciamo, è un qualcosa che è vicino alla stagione, perché noi l'abitudine del capitone l'abbiamo presa dal fatto che questa specie, che è un'anguilla, l'anguilla va a riprodursi e scende al mare, quindi esce da tutti i laghi, fiumi, lagune, eccetera, e va al mare. In questo passaggio è quando viene catturata nel maggior quantitativo, sia i lavorieri, sia nei vari sistemi di pesca che ci possono essere. Questi una volta le vengono conservate vive, per essere vendute proprio alla vigilia di Natale. Quindi uno, siccome la discesa al mare viene fatta in novembre, quindi a un certo punto uno ce n'ha il maggior quantitativo possibile che c'è. L'anguilla però comincia ad avere qualche problema di abbondanza, perché noi continuiamo a pescarla tutte le volte che scende al mare per andarci a riprodurre, le ripigliamo quando arrivano piccole per ricominciare a metterle anche negli allevamenti, e va a finire che ne arrivano sempre di meno perché non scendono più i riproduttori, semplicemente. Bene, professore, io la ringrazio, perché veramente lei è sempre di una chiarezza incredibile, e poi ci ha dato uno spaccato oggi davvero veramente molto interessante. Grazie, grazie, alla prossima volta. Bene, ora andiamo nell'Adriatico, andiamo a Riccione, andiamo al ristorante Azzurra da Maurizio Signorini. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, buongiorno. Allora, è il momento migliore per mangiare il pesce, è questo? Ma in questo momento penso proprio di sì, meno gente, più qualità. Ecco, cosa si trova al mercato? Cosa hai trovato stamattina al mercato? Oppure abbiamo preso due casse di scampi bellissimi da circa 3 o 4 etti l'uno, stupendi, poi cannocchi a volontà in questo momento anche con un buon prezzo, oppure caiche come vengono definite dagli antichi greci. Caiche, quindi, le famose caiche. Esatto. Che tu fai anche crude. Esatto, facciamo crude e facciamo nel momento che sono mollicce, come le moeche, le facciamo fritte. Ecco, si paga anche meno il pesce in questo momento, cioè quello di stagione? Sì, esatto, tipo le cannocchie 7 euro, direi quelle belle che è un prezzo, e tipo le gallinelle, le mazzole piccoline a 5 euro. Gli sgomberi invece quest'anno stanno allungando il periodo, diciamo, c'è tanti sgomberi in questo momento che ce n'erano molti meno qualche mese fa forse. E quanto costano gli sgomberi? Perché sembrava sgomberi sempre. Vanno dalle 9 alle 12 euro in questo momento. Quindi non è un pesce così popolare come si può pensare, insomma, costa più delle cannocchie, mi pare, esatto, mi pare di capire. Esatto, anche i pesci poveri diventano ricchi in questo momento. Ecco. Però i pesci più commerciali sono i seppiolini, adesso in questo momento sono gli ultimi giorni, diciamo ancora per una settimana, cioè, insomma, sta diminuendo il quantitativo delle seppioline, però ancora si trovano seppioline, delle triglie, 6 euro, non molto grosse. Ecco, in questo momento il tonno è desparecido, si immagino. Sì, c'è qualche tonno randagio ancora, uno alla settimana, uno 10 giorni lo troviamo ancora, diciamo, belli anche di qualità. Se stiamo parlando di tonni nostrani. Tonno vero, giustamente. Esatto. Bene, grazie a Maurizio Signorini del ristorante Azzurra di Riccione. Ora andiamo a Milano, nel Regno del Pesce, nel ristorante Regno del Pesce, andiamo da Achille Macatti del ristorante San Bugo. Buongiorno Achille. Buongiorno Davide. Lei è al mercato in questo momento? No, sono già uscito, ecco, e sono. Cosa ha trovato? Ritorno a casa. Cosa ha trovato di interessante questa mattina al mercato? Ma dunque, quello che si trova adesso, che è veramente molto bello, che è un periodo molto buono, si trova poi la nostra cucina, che è quella dell'Adriatico: canestrelli, cappellunghe, soglioline, i soasi. Poi ho trovato degli scorfani molto belli, la gallinella. Poi scampettini nostrani che facciamo fritti, calamaretti. Insomma, è un periodo straordinario questo per il pesce. È un periodo veramente bello, quando non è molto freddo, che il caldo è già passato. Questo è il periodo migliore per me. Ecco, ma questo lo sostengo anch'io. Forse qualcuno, quando ho annunciato la trasmissione, avrà pensato che questa mattina ero un po' alterato. Ma insomma, invece questo è il periodo per mangiare il pesce e andare al mare a mangiare il pesce. Ma le volevo chiedere, anche i prezzi sono ottimi in questo momento rispetto all'estate? Sì, quello senz'altro. È sempre il periodo che la richiesta è calata per quello che riguarda il lavoro che è calato al mare. Adesso è prezzi che sono buoni, molto buoni. Devo dire che veramente anche la quantità che c'è poi sul mercato influisce parecchio sul calo del prezzo del pesce. Ecco, finalmente penso, spero, che la gente non chieda tonno. Ma devo dire Davide che il tonno è richiesto. Lo so purtroppo. Ma questo non è il periodo del tonno, però. No, lo sappiamo benissimo, non è il periodo del tonno. Però devo dire che ci sono poi anche dei tonni che sono, diciamo, del Mediterraneo, adesso arrivano anche dalla Spagna. Non ti dico, ieri c'era invasione di tonni, ma tonni però, attenzione, perché arrivano molti che non hanno la testa. Arrivano tonni pinne gialle, perché il tonno rosso è vietato alla pesca dal 18 di giugno, quindi credo che bisogna fare molta attenzione anche chi va al ristorante a mangiare il tonno. Senta Achille, quale piatto consiglia in questo periodo? Un piatto con un pesce particolare? un bel misto alla griglia. Un bel misto alla griglia, quindi che è sempre la cosa migliore. È un bel misto alla griglia con i cacciaroli che poi sono quel mezzo calamaro da spiedino, la capasanta, i due canestrelli, la sogliolina, il soaso, un trancio di coda di rospo. Io sono molto legato a questi piatti e questo è un piatto che devo dire che l'abbiamo inserito in menù ed è molto molto richiesto. E poi il fritto. Sì, la Romagna emerge, la Romagna marinara emerge. Grazie Achille, grazie, a presto. Il gastronauta. Come avete ascoltato, cari gastronauti, ebbene il mio slogan iniziale sicuramente non era da fuori di testa, ma tutti quelli che abbiamo sentito danno ragione a questo slogan: tutti al mare a mangiare il pesce in questo periodo, perché abbiamo sentito appunto non solo le specie, le quantità di specie che ci sono, la quantità in senso diciamo di peso e sicuramente anche il costo. Quindi è il periodo proprio adatto per gli amanti del pesce. Ma manca il tonno. Se Dio vuole, in questo periodo manca il tonno, perché non se ne può più di questo tonno in tutte le salse. Ma ora sicuramente ci sarà qualcuno che dirà: ma no, bisogna mangiare il tonno. Bene, ora andiamo in Sardegna. Andiamo da Secondo Borghero al tonno di corsa di Carlo Forte, che è un po' la patria italiana del tonno, ma del tonno rosso del Mediterraneo, del tonno di corsa, non del tonno pinne gialle che arriva tutti i giorni da tutti i mari del mondo. Buongiorno Secondo. Ah, salve, ciao Davide. Allora Secondo, dimmi. Ci sono i tonni in questo periodo, Carlo Forte? Dunque, allora, il discorso è questo: tu sai che io sono un patito della tradizione e delle cose, diciamo così, legate alla stagionalità. Allora, e siccome il tonno, intanto, storicamente il tonno era un pesce preso, diciamo così, in un certo periodo dell'anno, perché era il periodo del passaggio. Oggi si pesca tutto l'anno e questo purtroppo è un male. E il periodo del passaggio era maggio, giugno. E poi c'erano i tonni di ritorno erano in autunno, ma io invece vorrei proporre, sto proponendo anzi in cucina, una cosa molto tradizionale di pesce, di tonno. Siccome tu sai benissimo che il tonno è un pesce un po' che è considerato da noi una specie di maiale, dove viene consumato gran parte fresco, gran parte però ci sono tante altre cose che vengono conservate sotto sale oppure sotto olio e vengono proposte appunto in autunno e in inverno. Ecco, noi per esempio il piatto forte di questo periodo è la trippa del tonno, perché il tonno grande, come si sa, ha uno stomaco molto grande. Durante la stagione della tonnara, questi stomaci di tonno vengono salati ed essiccati, un po' come gli stoccafissi. Ma mi sembra che lo chiamate ubelu. Ubelu, esatto, perfetto. E adesso noi proponiamo queste cose legate, diciamo, al tonno. Chiaramente poi c'è tutto l'altro pesce, però essendo proprio, come si dice, dei cultori della tradizione, anche perché, diciamo la verità, il tonno migliore è il tonno quello, diciamo, che della stagione, cioè dove è nella sua forma organolettica più buona, con le carni grasse eccetera. Adesso, anche se qualche tonno si pesca, ma non è di quel livello e di quella qualità, siccome tu sai che noi siamo dei cultori, della, ecco, tu hai detto prima tonno di ritorno. Il tonno di ritorno, allora, i tonni di ritorno, tu sai benissimo che nel Mediterraneo c'è questo passaggio di tonni, e c'è la prima ondata ce l'abbiamo nel periodo appunto primaverile. Poi, dopo che loro hanno depositato le uova e girano ancora nel Mediterraneo, sono abbastanza sfiancati. Intanto è vero che il tonno di ritorno era considerato un tonno di serie B, perché era più magro. Ecco, questo. Ecco, volevo chiederti anche questo: dal 18 di giugno praticamente è vietata la pesca del tonno rosso del Mediterraneo, e non si sa come continuano ad arrivare un po' ovunque in Italia dei tonni dalla Spagna, la quale è sottoposta al nostro stesso divieto. E allora, com'è questo fatto? Ma è ancora in corso il divieto del 18 giugno o è stato rimosso? No, c'è un divieto, però dobbiamo tener conto di una cosa, che la Spagna è una nazione che nella pesca ha, diciamo così, molte più organizzazioni rispetto a quella che è la pesca italiana, per cui nel mondo i pescatori spagnoli, l'industria ittica spagnola è diventata praticamente una tra le più importanti per quanto riguarda la lavorazione del tonno. E poi secondo me questi tonni non sono del Mediterraneo, parliamoci chiaro. Sono tonni di pinne gialle che arrivano dai mercati caldi. Non saprei al 100%, però molto probabile. Sì, che poi vengono trattati in maniera diciamo assurda, si dice col monossido di carbonio, ma io spero di no perché ci sarebbe veramente il penale, ma si dice anche con un succo di barbabietola rossa, che è una ricetta tratta da Gian Burrasca. Chiusa la parentesi. Bene, rimani con noi. Ora andiamo al mercato di Viareggio. Andiamo da Romano Franceschini. Buongiorno Romano. Buongiorno. Cos'hai portato questa mattina dal mercato, da quello splendido mercato di Viareggio? Insomma, abbastanza roba. È un periodo buono questo per il pesce? Sì. Comincia a essere già il periodo, insomma, che c'è un po', le acque sono più fredde di prima, insomma, e ci sono certi pesci tipo i rombi, le sogliole, e poi ora si comincia a pescare le seppie, i calamari, i calamaretti, i moscardini di fondale. Ah, quindi, fantastici quelli, eh? Quelli che noi si chiamano paraculetti, quelli d'inverno. Ah, bene. Piccolini ancora. È un bel nome questo, paraculetti. E i viareggini hanno fantasia. Mi sembra proprio di sì. E questi qui le fai fritti, no? Questi qui si fanno a zuppettine. Con zuppettino di pomodoro. È meglio fare la zuppa, sì, col pomodoro. E poi anche le cicale, il palombo, piatti che ora d'inverno si possono fare anche con la polenta. Insomma, fare delle zuppettine così e poi servirle con la polenta è un po' questi piatti che si possono fare d'inverno. Ecco, il palombo con i ceci è un ottimo piatto, se non erro, vero? Viene servito ora molto con i ceci. I palombi sono, sai, quei gattuccio si chiama anche, quei palombetti piccolini, insomma. Ecco, ma secondo te la gente che viene ora nel tuo ristorante, viene perché sa che questo è il periodo migliore per mangiare il pesce o viene magari casualmente? O ci sono dei personaggi che sanno benissimo qual è il pesce di stagione? Intanto ci sono delle cose tipo tra poco ci sono, appena fa freddo, i bianchetti, che poi insomma è un piatto più anche della Liguria, soprattutto della Liguria, ma poi anche gli scampi, queste cose, anche se se ne pesca in minor quantità, arrivano vivi, e per servire crudi, insomma, il massimo è adesso. Senti, tu che sei anche un bravissimo sommelier, nonché produttore di un eccellente vino, sia bianco che rosso, a Monte Carlo, volevo chiederti, in questo periodo, il cliente accosta molto spesso il pesce col vino rosso, magari anche data la stagione, oppure è sempre il bianco che trionfa? Beh, il bianco è di più, però sta crescendo molto il che si beve vino rosso. Servito fresco magari. Eh sì. Bene, grazie a Romano Franceschini, grazie del ristorante Romano di Viareggio, grazie e a presto. Voglio tornare un secondo da Borghero. Borghero, volevo chiederti, ma diciamo mancano i tonni e tu dici giustamente ricorriamo al tonno che abbiamo messo via d'inverno. Volevo chiederti, ma quali altri, diciamo, specie di pesce si pescano nel Carloforte dintorni? Beh, adesso diciamo noi siamo abbastanza, come si dice, fortunati perché abbiamo la piccola pesca e come ben sai la piccola pesca è un prodotto di altissima qualità, perché pesca in fondali che non sono eccessivamente profondi, per cui abbiamo diciamo il pesce che mangia tutte le erbe di scoglio, molto saporito. Adesso in inverno, in questo periodo, diciamo trionfa molto il pesce da zuppa, allora per esempio il cappone, lo scorfano, poi ci sono appunto i molluschi, le seppie cominciano ad essere buonissimi, i polpi cominciano diciamo così, a diventare, a ingrassarsi, per cui sono molto più buoni rispetto alle stagioni estive. Diciamo che prevalentemente adesso è il pesce da scoglio, le orate, poi adesso che stanno facendo le prime piogge, per esempio vicino alla costa dove ci sono ruscelli eccetera, abbiamo le spigole, finalmente le spigole di mare, non quelle di allevamento. Bene, io ringrazio anche Secondo Borghero del Tono di Corsa di Carlo Forte. Volevo anche ricordare che la scorsa settimana abbiamo fatto una dibattuta trasmissione sul vino novello e sulla quale si è scatenata poi una conseguente dibattito sul mio sito www.gastronauta.it. Quindi chi volesse ancora intervenire su questo argomento, perché ho visto che è stato molto sentito, lo può fare, perché i pareri davvero sono molto discordi, i pro e i contro, quindi anche per vari motivazioni. Un argomento davvero che ha sollevato così varie posizioni e vari partiti. Quindi continuiamo a discutere. Il gastronauta. Ebbene cari gastronauti, io rilancio tutti al mare a mangiare pesce in questo momento, perché è il momento migliore, non solo al mare ma anche nei ristoranti, quelli seri che scelgono pesce di stagione e pesce fresco. Bene, ora facciamo un salto al mercato ittico di Milano dal dottor Malandra, che è il veterinario responsabile. Perché volevo chiedere al dottor Malandra questo, ma in questo momento di grande afflusso di pesce proveniente dai mari italiani, perché lo ripeto, è il periodo migliore della stagione di tutto l'anno, continuano ad arrivare pesci dall'estero, è vero o non è vero, dottor Malandra? Sì, perché la domanda del pesce di pregiato, di un certo pregio, è così alta che purtroppo la pesca nazionale, anche nel periodo in cui comincerei più favorevoli, questi dopo estate autunnali, non riesce, diciamo, a colmare la domanda. Quindi inevitabilmente arriva sempre prodotto per via aerea da località, diciamo, atlantiche o anche indopacifiche. Ecco, io immagino, ma poi lei mi può anche smentire o confermare, che buona parte di questo che arriva è tonno. Sì, dunque, allora il discorso del tonno è che la domanda è così alta e voi sapete le difficoltà che si hanno sulla pesca del tonno rosso, il nostro tonno mediterraneo, certo, il tonno stinus, e quindi inevitabilmente, che poi è, diciamo, preda del commercio giapponese, che è molto ambito per i giapponesi, quindi loro con prezzi molto alti accaparrano, quindi inevitabilmente il mercato nazionale si sposta su provenienze per via aerea, ripeto, soprattutto Indo-Pacifico, Oceano Indiano, prodotto fresco, diciamo la catena sanitaria è ben garantita, ma è un'altra specie. Ecco, pinne gialle. Il tonno pinne gialle, il Tunnus albicans. Ecco, vogliamo, io una volta per tutte ai nostri radioascoltatori voglio dire questo, ma che si rendano conto che il periodo del tonno rosso del Mediterraneo è in primavera, poi c'è un tonno di ritorno sull'autunno, ma è molto bassa, diciamo, l'arrivo sui mercati. E allora, signore, ma mangiate il tonno nel periodo in cui abbiamo il tonno nostrano, abbiamo il tonno made in Italy o made in Mediterraneo, altrimenti sicuramente mangerete un tonno peggiore, perché così il tonno pinne gialle qualitativamente non è il tonno diciamo rosso, e quindi che si impari secondo me la stagionalità anche dei pesci, perché come ho detto all'inizio il pesce ha la sua stagionalità come lo ha la frutta e la verdura. Rimanga con noi comunque dottor Malandra, perché ora abbiamo dall'Hotel Gallura di Olbia Rita Denza, che è diciamo il punto di riferimento della ristorazione sarda. Buongiorno Rita. Buongiorno Davide Paolini. Allora, cosa le è arrivato stamattina di fresco, Rita? Cosa le ha portato i suoi pescatori? Stamattina mi hanno portato delle triglie, delle sardine che sono state pescate con il giangiolo, con il tramaglio, polpi, poi hanno portato delle gallinelle, hanno portato due corbagli, hanno portato dei muggini, del dentice. Insomma, un ben di Dio stamattina le hanno portato. Un ben di Dio, perché in questo periodo appunto possono pescare le barche medie, i tramagli sotto costa, e quindi si trova, e poi appunto hanno questo giangiolo, le barche più grandi, dove pescano sardine, alici, sgombri, tutto il pesce azzurro. Ecco, Rita, però diciamo che questo è il periodo in cui il cliente, i clienti di solito sono un po' scettici di andare a mangiare il pesce, così magari tutti pensano che il pesce si mangia d'estate in agosto, magari nei posti balneari. Ma non direi, perché lo conoscono, lo sanno, chi viene qui per esempio in Sardegna sa perfettamente che adesso è il periodo migliore per la pesca, e quindi sanno, per esempio sanno benissimo che adesso ci sono delle triglie splendide, quelle cosiddette triglie di scoglio, soltanto che sotto Tavolara in questo momento non si può pescare, perché lei sa benissimo che hanno fatto il parco, e quindi quelle, tutte quelle che escono, che sono le fuoriuscite, le vengono pescate appunto dalle barche medie. Ecco, ma il, diciamo che la grande cosa della Sardegna, la cosa più prelibata, sono le aragoste. In questo periodo ci sono, c'è qualche aragostina? No. In questo periodo la pesca delle aragoste è chiusa. È chiusa, e quando riapre? Riapre, riapre a secondo le annate. Quindi l'anno scorso per esempio ha aperto in febbraio, quest'anno, ossia il prossimo anno nel 2009, non si sa. Ed è a chiuso il 15 di settembre. Ecco, sentiamo dal dottor Malandra, arrivano le aragoste in questo periodo da Cuba e dai paesi, diciamo, dai paesi caldi, dottor Malandra? Allora, sì, sono le aragoste dell'Atlantico, sì, che arrivano o dal Marocco, Senegal, o anche dal Sudafrica. Arrivano vive, per via aerea. Sì, Perché la nostra nazionale è ferma, e poi diciamo che è sempre più rara, c'è scarsità proprio per problemi proprio di pesca. Immagino che a Natale la domanda, sotto Natale la domanda di aragoste cresce notevolmente. Sì, pari passo ai prezzi, perché i prezzi raddoppiano in pratica. Sempre così. Sentiamo Rita, ma come fa senza aragoste? Niente, non si mangiano aragoste. E la catalana quindi non c'è? No, la catalana non c'è. Ma ecco, diamo un sostituto, un piatto, lei, la sua è straordinaria la catalana, c'è un altro piatto che fa in questo periodo succulento come quello? Per quanto concerne, lo facciamo con gli scampi che vengono pescati alla caletta, Siniscola, sì, lì vengono pescati sia i gamberi che gli scampi, allora lo sostituiamo, però lo facciamo in una maniera un pochino diversa, invece di appunto di condirlo dentro la zuppiera, lo facciamo la salsa, la predisponiamo e la mettiamo poi sopra gli scampi. Ma le foglie di sedano le mette anche sugli scampi? Certamente. Oppure no? Certamente. La stessa... gli stessi ingredienti di condimento vengono adoperati per gli scampi, oppure adoperiamo le aragoste della Sicilia. Ah, perché in questo periodo ci sono quindi le aragoste, sì, della Sicilia? Le aragoste in Sicilia ci sono, possono pescarle, perché hanno dei tempi di fermo pesca diversi dai nostri. Bene Rita, io la ringrazio, grazie a Rita Denza che ci ha dato così lo sguardo sulla Sardegna. Peccato, perché stavo cercando disperatamente un cuoco siciliano, speriamo di trovarlo proprio in finale di trasmissione per farci dare anche così lo sguardo sui mari della Sicilia. Dottor Malandra, un'ultima cosa le volevo, sì, chiedere, i controlli sanitari dai paesi, cioè dai pesci che arrivano, diciamo, chiamiamoli dai mari caldi, quelli, sì, meno diciamo, come posso dire, meno garantiti, ecco, dire la parola giusta, sono certi, sì. Sì, dunque c'è un controllo proprio veterinario all'aeroporto, gli scali più importanti sono Malpensa e Fiumicino, e quindi su questi voli c'è un controllo proprio a partita, e i prodotti ittici sono quelli, diciamo, più esposti, più verificati, perché sono più delicati. Perché la catena del freddo è... La catena del freddo deve essere garantita, c'è un controllo poi sulla tracciabilità per vedere se la documentazione all'origine è a posto. E soprattutto c'è una verifica sulla specie, perché può capitare che specie simili poi vengano piazzate sul mercato con un nome italiano, quindi c'è una frode di sostituzione. Sì, perché nelle pescherie dovrebbe esserci proprio il cartellino con tutte le indicazioni, cosa che non sempre avviene. Ma comunque si sta, diciamo, diffondendo, consolidando sempre più. L'obbligo di legge c'è da 3 anni, e devono mettere appunto, oltre il nome, quello ufficiale del decreto delle denominazioni italiane ufficiali, poi anche se pescato o allevato, e se è pescato la zona di cattura, si è allevato il paese. Bene, sicuramente queste sono informazioni che vanno benissimo, sono preziose per i nostri ascoltatori. Grazie, dottor Malandra, a presto. Arrivederci. A presto. Bene, siamo arrivati in conclusione. Io credo che l'assurdo iniziale di tutti al mare o mangiare pesce in questo periodo sia stato ampiamente dimostrato. E allora io vi saluto e vi auguro magari un weekend a base di pesce in qualche posto balneare dove magari andate durante le stagioni calde e in realtà dove sicuramente mangiate pesce inferiore a questo momento. Quindi mangiate pesce in questo momento perché sicuramente è il momento migliore per assaggiare appunto tanti pesci che non ci sono durante l'estate e soprattutto pesci di stagione e quindi fresco e quindi che costa meno. Bene, allora buon weekend dal vostro gastronauta che vi dà appuntamento per la replica di questa trasmissione domani alle 10 e poi alle 12:15 con il wine bar del gastronauta e tutti i giorni con la pillola alle ore 18. Arrivederci e a presto!